Here are the new words and phrases you'll need for the next dialogue. Ascolti e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Un locale. A public place. Un locale. Famoso. Famous. Famoso. Profumo. Nice smell. Perfume. Profumo. Una pasta. A pastry. Una pasta. Come. As. Like. Come. Quella. That. That one. Feminine. Quella. Adesso ripassi le parole e le espressioni nuove. Now review those new words and phrases. E quando si sente sicuro, ascolti il dialogo.